Ma com'è che faceva questa canzone? So che lei è un po' restio adesso, però insomma l'ha sempre fatto. Com'è che faceva Andiamocene via? Bel No, tiro, addirittura andiamocene via. la canzone diceva scappiamo via da tutti, lasciamoli così col naso in aria e afflitti. E come? Beh. Andiamo via davvero in un'isola lontana, in un altro emisfero. Beh, chiaro riferimento alla persecuzione giudiziaria. Non lo so, Ah, 2002, non so, 2002 nel 2002 non mi ricordo che c'era. com'era la situazione. Senta, ma com'è che faceva invece la strofa, il ritornello, proprio un po' cantato, insomma, lei ce l'ha un po'. Andiamo via davvero, in un'isola lontana, in un altro emisfero. Raga, maestro Apicella, Maestro, lei mi regala sembra scritta in queste ore in realtà, sembra scritta in questi giorni. un'attualità pazzesca. Lei per forza vuole che deve essere attuale, ma non lo è. Sembra scritta in questi giorni, diciamo la verità. No, invece è stata scritta nel Ma 2002, scusi, quella cosa. andiamo via da. Infatti quando ho letto che era stata scritta sui giornali, che era stata scritta nel 2006, dico, vedi, non dicono mai una verità. Sti C'è giornalisti, sorpresa, eh? eh? C'è sorpresa. Com'è? Ma andiamo tutti a farsi benedire? Come fa quella parte là invece, diciamo, Ma cantata? andiamo tutti quanti a farsi benedire e non pensiamo ad altro che a vivere e ad amare. Come fa invece cantata questa parte? Ma andiamo tutti quanti a farsi benedire e non pensiamo ad altro che a vivere e ad amare, tu ed io, verso il sole, verso il mare.